culture due, di culture parliamo, tre significati di differenziare. In due d'essi il suo avviso è di contrari, il terzo è atemporale. In tutti i significati proviamo a non essere sgrammaticati, depreciamo le parole di miseria, culturale, al minimo, che siete puntuali nella forma, nel tempo e nello spazio. Ci sarà qualcuno che si avvantaggia delle allegorie mentre fa un passo bene di sensi e a contesti. Usiamo la letterazione delle parole per generare significato senza raggiungere le convulsioni. Proviamo i grafemi buoni, caratteristici e unici. Le allusioni rimangono allegorici e sotto esame di quelli che ti leggono e che ti ascoltano. Cerca l'ambiguità morfologica per scalare nell'avviso e in parte i tuoi discorsi e in altri generare il suo criterio. Adottiamo in parte l'ambiguità morfologica e lasciamo l'inercitato sintattico. Quando scali nell'avviso, trasforma l'amplificazione in un vero metavolo. Di culture parliamo, tre significati da differenziare. In due di essi il suo avviso è dei contrari. Il terzo è atemporale. In tutti i significati proviamo a non essere sgrammaticati. Depreciamo le parole di miseria culturali al minimo. Che siete puntuali nella forma, nello tempo e nello spazio. Publio Cesare, il capo.